Non sei mai sincero, dici che è falso, quando che è vero. Vero, vero, vero, vero, vedo quello che fa l'uomo per avere l'oro nero. Vedo che le guerre, vedo che le terre hanno più valore della vita della gente. Vero, vero, vero, vero, vedo quando me lo spieghi non sei mai sincero, dici che è falso, quando che è vero. Sofferenti, tu ignori, lamenti, tanto puoi sempre una scusa, te inventi.